Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Berlusconi sta meglio, sarà dimesso domani, deve stare a riposo per almeno 2 settimane. Napolitano, società civile più coesa della politica in Parlamento, ancora scontro, parla Di Pietro, il PDL lascia l'aula. Finanziaria, il governo pone la fiducia, sarà votata domani, Fini, scelta deprecabile. Maltempo, morto uno dei militari feriti a Catania durante la tromba d'aria. Buona giornata dalla redazione da Anarita D'Ambrosio. Dimissioni dunque domani per il premier Berlusconi alle 10.30. Oggi il nuovo bollettino medico in diretta. Stefano Totoro. Sì, il presidente Berlusconi ha trascorso una notte tranquilla, le condizioni cliniche non destano preoccupazioni, queste sono le parole del professor Alberto Zangrillo, che appunto, come dicevate, da studio alle 10.30 ha letto l'ultimo bollettino medico, dovrebbe essere l'ultimo proprio anche perché il presidente del Consiglio dovrebbe uscire, essere dimesso domani dall'ospedale. Il professor Zangrillo ha poi parlato anche dell'umore del premier, dicendo che ha trovato il premier amareggiato. Sentiamo le sue parole. È sicuramente sereno per quanto riguarda il ripristino di tutta la sua situazione fisica, e è molto amareggiato e rimane quindi una coda profonda di amarezza per quello che è capitato e anche per alcune code successive. La raccomandazione dei medici è quella di astenersi da impegnative attività pubbliche per almeno 2 settimane, e proprio su questo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Paolo Bonaiuti, che continua ad essere qui al San Raffaele, ha detto sarà un'impresa titanica tenere a casa 15 giorni il premier. Per fortuna ci sono le feste, approfitteremo per tenerlo tranquillo. Naturalmente proseguono anche le visite di ministri, esponenti della maggioranza. Questa mattina a visitare il premier è stato il ministro della giustizia Angelino Alfano, lo ha trovato stanco e dolorante ma reattivo, ha detto il guardasigilli, con l'amarezza verso chi ha gettato il seme dell'odio. Esiste un clima d'odio, ha detto Alfano, speriamo che da questa vicenda possa nascere qualcosa di positivo. Per il momento da San Raffaele è tutto, a voi. Grazie Stefano. Ed oggi sull'aggressione riferito in aula il ministro Maroni. Alessandra Schepisi. Alessandra. Sì, buongiorno. Giro di vite contro i siti internet che inneggiano all'aggressione del premier, una vera e propria istigazione a delinquere alla quale il governo vuole porre fine. Così Maroni nella sua informativa alla Camera. Il ministro annuncia dunque che già nel prossimo Consiglio dei Ministri di giovedì potrebbe arrivare un decreto contro la violenza nelle manifestazioni pubbliche e sul web. Il responsabile del Viminale ricostruisce poi quanto avvenuto domenica. Il gesto di Tartaglia, dice, è stato premeditato. Sentiamo. Il Tartaglia si trovava in prossimità del luogo della manifestazione già dalle ore 11, proprio in preparazione del suo folle gesto. In particolare, la premeditazione risulta provata anche dalla circostanza che l'aggressore è stato trovato in possesso di una bomboletta spray al peperoncino e di altri oggetti contundenti, astrattamente idonei a ledere persone. Ma per Maroni non è possibile muovere nessun rilievo alle forze dell'ordine. La gestione della sicurezza, ribadisce, avvenuta secondo le regole, ha consentito di sventare una violenta contestazione al premier proprio sotto il palco. Per il ministro poi nessun testimone aveva avvisato la polizia delle intenzioni di Tartaglia, contrariamente a quanto riportato da un servizio di Striscia la Notizia. Dietro il suo gesto, aggiunge, c'è però una pericolosa campagna di odio contro il premier che scatena l'emulazione. Per questo Maroni invita a moderare i toni, si fermi la pericolosa esasperazione della polemica politica e si torni ad un normale confronto tra le diverse parti e le diverse istituzioni. E da Montecitorio è tutto, a voi la linea. Grazie Alessandra. E subito dopo le parole di Maroni c'è stato il dibattito molto acceso in diretta. Elisabetta Fiorito. Sì, proprio così, l'appello del presidente Giorgio Napolitano e di Maroni ad abbassare i toni cade nel vuoto, perché nell'aula di Montecitorio si acuiscono gli scontri. Duro l'intervento del capogruppo PDL alla Camera Fabrizio Cicchitto, che parla di un'aggressione compiuta da uno squilibrato, fomentato però dal clima d'odio. Sentiamo un passaggio dell'intervento di Cicchitto. A condurre questa campagna è un network composto dal gruppo editoriale Repubblica Espresso, da quel mattinale delle procure che è Il Fatto, da una trasmissione televisiva condotta da Santoro e da un terrorista mediatico di nome Travaglio, da alcuni pubblici ministeri, da un partito, l'Italia dei Valori, da un partito! da un partito, l'Italia. Onorevoli colleghi, il cui leader Di Pietro sta in questi giorni evocando la violenza. Chitto risponde ovviamente immediatamente Antonio Di Pietro, ma appena il leader dell'Italia dei Valori prende la parola, i deputati del Popolo della Libertà escono dall'aula di Montecitorio, come rivela Di Pietro e il presidente dell'Assemblea Fini. Sentiamo. Volevo rispettare le persone che non vogliono ascoltarmi. Stanno uscendo, quindi. Rispettiamoli, rispettiamo, non vorrei rovinare le loro orecchie. Ieri ho espresso solidarietà umana a Berlusconi e per l'aggressione subita e deplorazione per la violenza causata da quello squilibrato. Oggi esprimo solidarietà totale mia e del partito alle persone condannate a morte dall'onorevole Cicchitto. Pierluigi Bersani auspica che si fermi la criminalizzazione reciproca. Per il segretario del Partito Democratico il rischio è che qualcuno si vesta da pompiere per fare l'incendiario. E per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta. La società italiana si mostra più forte e coesa rispetto all'immagine di esasperato conflitto che dà la nostra politica, ha detto oggi il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ricevendo al Quirinale gli atleti campioni in specialità olimpiche. Intanto sul fronte delle indagini oggi l'interrogatorio di Tartaglia, che ha ammesso le sue responsabilità, è iniziato da circa un'ora. Tartaglia è sembrato, questo secondo indiscrezioni, particolarmente interessato alla politica e alla figura di Berlusconi, del quale saprebbe tutto. E c'è un fronte di preoccupazione del quale si parla da giorni, Facebook. A Facebook, alla rete, era dedicato il nostro sondaggio. Il governo deciderà come intervenire sui siti internet che inneggiano alla violenza, un fenomeno che si è diffuso appena poche ore dopo l'aggressione a Silvio Berlusconi domenica in Piazza Duomo. Ma è giusto secondo voi oscurare chi sul web plaude per esempio all'aggressore Massimo Tartaglia? Il 61% di voi sostiene di no nel nostro sondaggio odierno. Ma il sottosegretario agli interni Alfredo Mantovano reagisce così a chi dice che la rete è una piazza sulla quale ci si può sfogare. Se io in piazza minaccio, ingiurio o diffamo o calunnio una persona, non è che la piazza è l'oasi che mi esenta da qualsiasi responsabilità. Ci sono dei reati che sulla rete vengono commessi. Bianconero torna domattina alle 8.30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Il commento di Gianluca Nicoletti sulla mobilitazione della rete. Oggi tutti i quotidiani analizzano quasi con stupore il fenomeno dell'esplosione in rete di uno strampalato e cinico dibattito sull'aggressione al Presidente del Consiglio. A sola distanza di un giorno dal lancio di Piazza Duomo, il primo gruppo Facebook dei fans di Massimo Tartaglia contava 85.000 adesioni. Poco fa gli amministratori hanno scritto sulla bacheca del gruppo che hanno deciso di chiuderlo, scrivendo che ci sono cose ben peggiori in Italia di una pagina aperta con il nome di Massimo Tartaglia. Beh, questa è una perfetta sintesi dell'ideologia manichea che esprime il populismo, che purtroppo banalizza ogni dibattito aperto in rete. Il caso di cronaca in questione è stato esemplare dimostrazione di quanto sia illusorio pensare che una rete aperta alla partecipazione di chiunque possa corrispondere a un perfetto strumento di espressione democratica. Internet è il luogo dove le opinioni si radicalizzano, non accettano confronto, non ammettono replica, se non attraverso gli strumenti dell'aggressività, della battuta goliardica, dell'intransigenza assoluta. Se da una parte qualcuno scrive «Bravo Tartaglia, altro che psicolabile, ha manifestato una grande forza d'animo, se è l'espressione dell'insofferenza italiana alla politica marcia corrotta», dall'altra si tentano esperimenti virali di marketing ideologico. Il gruppo che se la prendeva con i fan di Tartaglia con più di 800.000 iscritti in realtà era fasullo. Fino a ieri l'altro si chiamava Sosteniamo il Made in Italy. Anche solidarietà a Silvio Berlusconi vanta 1.895.000 membri, ma quando si erano iscritti era «No Facebook a pagamento» nel 2010. Questo dovrebbe far riflettere sull'incapacità culturale diffusa nel gestire uno strumento di partecipazione che avrebbe potenzialità meravigliose, limite che si manifesta con uguale intensità anche chi di fronte a tutto ciò risponde immediatamente che la soluzione è quella di chiudere, censurare e regolamentare. Torniamo a Montecitorio dopo il dibattito sull'aggressione al premier Tony Aspri. Anche sulla finanziaria è stata posta la fiducia. In diretta Andrea Viali. Sì, Anna Rita, il governo dunque stringe i tempi con la maggioranza sulla finanziaria. Stamattina l'aula di Montecitorio prima ha approvato l'articolo 1 della manovra, poi è intervenuto, ha preso la parola il ministro per i rapporti con il Parlamento Vito, che, come dicevi, a nome del governo ha posto la fiducia sull'articolo 2, che di fatto è quello che contiene tutte le misure principali di questa finanziaria. L'annuncio di Vito è stato accolto dagli applausi della maggioranza, contestato invece dalle opposizioni, ma un po' a sorpresa anche dal presidente della Camera Fini, che ha preso la parola per criticare il ricorso alla fiducia. Sentiamo proprio le sue parole. La posizione della questione di fiducia, che lo ripeto è prerogativa legittimamente riconosciuta all'esecutivo, non può che essere considerata dalla Presidenza come una decisione attinente esclusivamente a ragioni di carattere politico, ed è la ragione per la quale la Presidenza della Camera considera deprecabile la decisione assunta dal Governo, perché di fatto impedisce all'Aula di pronunciarsi sugli emendamenti. Ecco, una presa di posizione, quella di Fini, che naturalmente ha alimentato nuove polemiche all'interno della maggioranza. Fini, a nome del governo, ha risposto il ministro Calderoli, il quale ha ricordato al presidente della Camera che non spetta a lui valutare il ricorso alla fiducia. Questo intanto. La conferenza dei capigruppo invece ha fissato per domani a mezzogiorno il voto di fiducia, il voto finale si terrà invece giovedì, poi la finanziaria, lo ricordiamo, dovrà tornare al Senato per il via libera definitivo, che è previsto prima di Natale. A te la linea, Anna Rita. Grazie Andrea. Tra le misure contestate in finanziaria, la norma che consente la vendita dei beni confiscati alla mafia nel caso non possano essere destinati o trasferiti per finalità di pubblico interesse. Il rischio, sostengono in molti, e che tornino nelle mani dei boss. Significherebbe togliere un tassello importante nella lotta alla mafia, dice Davide Papi, responsabile dei beni confiscati di Libera. Non so quale valutazione, insomma, è stata fatta anche da parte del Ministero dell'Interno rispetto alle entrate che possono essere ottenute dalla vendita di questi beni. Se noi vediamo che per le aziende per i quali già oggi è prevista la vendita, su circa 1200 aziende solo 34 sono state vendute, e per molte di esse, per molte situazioni, le forze di polizia e la magistratura hanno bloccato il tentativo di riacquisto da parte di prestanome. E non si discute naturalmente questa attenzione che i prefetti faranno rispetto a tutto questo, ma quello che ci lascia perplessi è che si tolgono delle opportunità per contrastare le mafie in quello che è il loro punto di forza, il consenso che hanno nei territori. Vendere questi beni significa togliere da quelle comunità questa opportunità di sconfiggere le mafie. Il ministro Maroni ha proposto di creare un'agenzia nazionale per la gestione dei beni confiscati per evitare il rischio di riappropriazione da parte della mafia. È importante che il ministro Maroni ha detto questo e speriamo che nasca più presto. Ricordiamo che la Commissione antimafia nella scorsa legislatura l'aveva votata all'unanimità la proposta di un'agenzia nazionale, il CNEL l'aveva votato anche all'unanimità, il Consiglio dell'Unione Europea nel dicembre del 2007 ha previsto l'istituzione di un ufficio nazionale in ogni paese membro che si occupi della gestione dei beni sequestrati e confiscati. Certo, l'agenzia deve pensare all'utilizzo dei beni e non alla vendita. Le 13:17, ancora una buona giornata da Anna Rita, ad Ambrosio e dalla redazione. Nella prima parte del nostro GR abbiamo parlato delle condizioni di salute del Premier. Berlusconi sta meglio, sarà dimesso domani, ma deve stare a riposo per almeno 2 settimane. Abbiamo parlato anche del nuovo appello di Napolitano, oggi ha detto che la società civile è più coesa della politica. E a riprova di ciò c'è stato un duro scontro in Parlamento. Durante il discorso di Di Pietro, il PDL ha lasciato l'aula. I toni sono stati molto duri. La finanziaria, il governo ha posto la questione di fiducia, sarà votata domani. Fini ha detto una scelta deprecabile. Ora, come annunciato, parliamo di fisco. Ci colleghiamo in diretta con Roma, con Maria Chiara Grandis, che sta seguendo proprio un convegno sul tema. Maria Chiara. Sì, buongiorno. La presidente di Confindustria Marcegaglia ha appena detto di appoggiare il bis della sanatoria, che in queste ore allo studio del governo. Lo scudo fiscale ha raccolto una quantità importante di risorse, ha detto, l'idea di prorogarlo con una percentuale più alta potrebbe essere un'opportunità. La presidente di Confindustria lo ha detto a margine di un convegno dal titolo Un nuovo fisco per una nuova coesione sociale, dove i leader dei sindacati CISL e UIL hanno presentato al governo e agli industriali le loro proposte, fra i quali riduzione del carico fiscale e maggior sostegno alle famiglie. Al convegno è intervenuto anche il ministro dell'economia Giulio Tremonti, che ha sottolineato la necessità di riformare il nostro sistema fiscale datato e complicato. Serve fiscalità locale, attenzione alle famiglie, all'ambiente e alla ricerca, ha detto Tremonti. Ma tornando allo scudo fiscale, tema caldo del giorno, la numero uno di Viale dell'Astronomia ha aggiunto che con l'operazione si chiude una logica. Abbiamo sempre detto che poteva essere un male necessario per ricapitalizzare le imprese, ora la lotta all'evasione fiscale deve diventare ancora più forte, ha sottolineato Emma Marcegaglia, prima di ribadire l'urgenza di un abbassamento delle tasse per imprese e lavoratori. Ma dalla presidente di Confindustria è arrivata anche una grave condanna per l'aggressione di cui è stato vittima il premier, episodio che ha definito preoccupante, ma il fatto che siamo qui oggi, governo e opposizione, sindacati e industriali, è importante, ha detto la Marcegaglia, vogliamo dire basta al clima d'odio e iniziare tutti insieme a progettare il futuro. E da Roma è tutto. Grazie a Maria Chiara Grandis. Noi ci spostiamo all'estero, a Copenaghen, dove è stata una notte di scontri. I lavori alla conferenza sul clima sono ripresi questa mattina. Oggi è intervenuto anche il Papa. Di tutto questo ci parla in diretta Gigi Donelli. Gigi. Sì, buongiorno. Ci sono molti spunti effettivamente. Beh, gli scontri, forse una parola è sufficiente. Black Bloc all'attacco. La polizia danese ha reagito, ha contenuto l'operazione di fatto di provocazione dei Black Bloc, e direi che questo è sufficiente. E quello che è importante effettivamente in queste ore è l'ulteriore passaggio. Siamo passati dalla fase delle ONG a quelle degli Sherpa, da domani mattina solo ministri. Per questo l'India ha detto poche ore per arrivare ad un trattato su cui ragionare. Proprio pochi minuti fa, di fatto, la presidenza danese ha presentato un'ennesima proposta. Nella notte si dovrebbe arrivare alla definizione. La sensazione è che si sia ancora molto lontani, perché i problemi sostanzialmente sono gli stessi. Una volta accettata la protesta di ieri dei paesi africani che chiedevano di rianimare il protocollo di Kyoto, che vi ricordo firmato nel 97, dovrebbe finire nel 2012, ma contiene molti elementi interessanti per i paesi in via di sviluppo, quindi trattativa parallela su Kyoto e su un accordo generale. Come hai detto, intervento anche forte da parte del Vaticano, che invita a puntare sull'energia solare, sulle grandi possibilità appunto del geotermico. Insomma, un Papa che interviene direttamente con delle affermazioni anche, diciamo, competenti su quelle che sono i temi trattati proprio in queste ore a Copenaghen. Grazie Gigi, questo dimostra l'importanza del dibattito in corso. Noi restiamo all'estero, ma per parlare di attentati. Un'ondata di violenza scuote quasi contemporaneamente i tre paesi più caldi del mondo, Pakistan, Iraq e Afghanistan. Tutti attentati terroristici contro la popolazione civile o le istituzioni, e con la stessa modalità, l'autobomba, strumento di morte diventato irrinunciabile per la sua provata efficacia. Nel Punjab pakistano, dove sono attive numerose scuole islamiche, il terrorismo ha preso ancora una volta di mira un mercato affollato. Almeno 20 morti per ora, secondo la TV, e una quarantina di feriti. In Iraq, tre autobombe esplodono nel centro di Baghdad, davanti all'ambasciata iraniana, vicino al Ministero degli Esteri e davanti a quello dell'emigrazione. A Mosul, invece, nel mirino finiscono i cristiani iracheni. Due autobombe esplodono davanti ad altrettante chiese. Totale dei morti di questi attentati, 8. Oltre 50 i feriti. In Afghanistan, a Kabul, nonostante la presenza militare internazionale e il lavoro dell'intelligence, i talebani riescono a mettere a segno un attentato nel quartiere di Wazir Akbar Khan, con autobomba vicino alla residenza dell'ex presidente Rabbani. Almeno 8 morti. Cristina Ballotelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Un monumento dedicato ai caduti italiani nelle missioni di pace. La proposta era arrivata dal Sole 24 Ore all'indomani dell'attentato di Kabul, in cui morirono 6 paracadutisti, ed ora si sta concretizzando. Oggi a Roma, alla presenza tra gli altri del presidente della Camera Gianfranco Fini e del ministro Ignazio La Russa, il direttore Gianni Riotta presenterà 30 progetti per il memoriale, realizzati da altrettanti architetti ed artisti, tra cui Mario Botta e Arnaldo Pomodoro. Tesoro. L'appuntamento è alle 15 a Palazzo Montecitorio e ci sarà la diretta, vi ricordo, sul sito ilsole24ore.com. Subito dopo questo GR andrà in onda uno speciale dedicato all'iniziativa. La cronaca italiana adesso con il maltempo. È morto la notte scorsa all'ospedale Cannizzaro di Catania Davide Di Cara, di 29 anni, uno dei quattro militari della Marina rimasti feriti ieri a causa di una violenta tromba d'aria che ha scoperchiato un hangar nella base elicotteri di Maristaeli in Sicilia. L'elicotterista è deceduto per un gravissimo trauma cranico. Gli altri tre suoi colleghi sono ancora ricoverati in prognosi riservata. La procura di Catania ha aperto ora un'inchiesta. Il reato ipotizzato contro ignoti è di lesioni gravi colpose e omicidio colposo. E il vento forte interessa in queste ore anche il nord. A Trieste raffiche di bora fino a 155 km orari, mentre a Genova gravi disagi alla circolazione in porto per la sospensione delle attività di due scali, sempre a causa del vento forte. Fiocchi bianchi su Lombardia, Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Marche ed Abruzzo. In queste ultime tre regioni si registrano rallentamenti alla circolazione e si raccomanda l'uso delle catene. All'Aquila la neve ha costretto tutte le scuole alla chiusura per l'intera giornata. Molti disagi anche nei comuni limitrofi e nelle frazioni più alte. Grandinate e nevicate anche in Calabria. Il maltempo, secondo le previsioni, durerà tutta la settimana, sospinto dall'aria fredda proveniente dal nord Europa che interesserà la penisola italiana e il Mediterraneo. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo ha condannato l'Italia per aver dato la semilibertà al mostro del Circeo Angelo Izzo. Con questo provvedimento, concesso nel 2004, le autorità italiane hanno violato il diritto alla vita di Maria Carmela Linciano e Valentina Maiorano, uccise da Izzo proprio mentre godeva di questo beneficio. A Napoli prosegue il processo con rito ordinario per i fatti di Calciopoli, oggi prevista tra le altre la testimonianza di Carlo Ancelotti. Dopo le condanne di ieri, col rito abbreviato per l'ex dirigente della Juve Giraudo e l'ex presidente degli arbitri Lanese, parla a Radio 24 Giuseppe Gazzoni Frascara, l'ex presidente del Bologna che nel 2005 fece partire l'inchiesta con le sue denunce. Lo ha intervistato Massimo Di Scienza. C'era così una diffusa sensazione che sì, una teoria che sì, ma tutto il mondo del calcio era così e quindi Moggi non era altro che uno dei tanti che agiva così, invece era un'organizzazione precisa. Io difatti ho letto con soddisfazione, ho letto senza stupore che Juve, Bologna-Juve, arbitro Pieri è stato condannato per quello, e poi c'è la condanna di Dondarini, che è significativa perché Dondarini è coimputato con i fratelli Andrea Diego della Valle per quella partita Chievo-Fiorentina che diede tre punti alla Fiorentina che non ci sono. Dondarini, che ha scelto il rito abbreviato, è stato condannato, che vuol dire che il braccio della mente l'illecito l'ha commesso. Cosa pensa dell'ipotesi del ritorno di Moggi a Bologna e di Bettega alla Juventus? Fanno un po' specie, ma sa, Menarini è un ottimo imprenditore, Moggi effettivamente in calcio lo conosce ancora, sa il telefonino, è un grande mezzo di comunicazione, i suoi uomini sono ancora, i suoi limoggiani sono ancora in circolo. Fa un po' specie che di tutti quelli che devono mettere ordine uno spogliatore della Juve ci debba essere Vettica, che è stato un gran campione, ma era sempre con loro, eh. Io qualunque trattativa, salvo una, tutte erano sempre in tre, ma oggi girando Vettica. È tutto per questa edizione, grazie in regia Fabio Cantadori, vi lascio al nostro speciale, il GR torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.